Venerdì sera, assieme al Mercato Sonato, assieme al CRAPES, al Comitato Ricerca Associazione Pionieri d'Italia, diamo vita a questa iniziativa che appunto celebra il 21 aprile, festa della liberazione di Bologna, che precede poi il 25 aprile, che peraltro saremo anche via del Pratello, vero Alessandro? Esatto, sì. Beh, allora questa serata inizierà alle 8, questi fumetti resistenti, e ci sarà una conversazione con Ciro Saltarelli, che è uno storico ricercatore, parlerà sulla resistenza illustrata ai bambini, in specifico l'opera del pioniere tra conoscenza storica e public history. Ci sarà anche Luca Baldassi, che è redattore di Coccolino Press, che si cimenterà sulla trasmissione della memoria attraverso il fumetto, presenterà alcuni fumetti di ieri e di oggi sulla resistenza, e quindi la presentazione di una graphic novel, Una stella tranquilla, ritratto sentimentale di Primo Levi, quello di Se questo è un uomo, con l'autore Pietro Scarnera. Ci sarà anche la messa in mostra di questi pannelli, La storia d'Italia, scritta da Gianni Rodari, disegnata da Raul Verdini, sempre tratto dal pioniere, anni 54-55, quando vennero pubblicate puntate sul giornalino per ragazzi, e saranno appunto esposti nei muri del Mercato Sonato. Dopodiché seguire antipasto, apericena, cena con DJ set. Parliamo di resistenze, parliamo di fumetti, e insomma tu in duplice veste, diciamo, Radici da Fujiko e il pioniere. Il tema della resistenza, dell'antifascismo è stato spesso sui fumetti? Tantissimo, fin dal dopoguerra, il pioniere, tanto per parlare di questo giornale, si cimentava come oggi sulla memoria, perché sembra paradossale, ma il dopoguerra c'era l'oblio della resistenza, un po' perché dopo il 48 tutte le forme della sinistra erano allontanate dai luoghi di potere, quindi anche dai luoghi dell'informazione, e un po' anche perché comprensibilmente la gente ha voglia di guardare al futuro, la pace, non ricordare le cose brutte del passato. Per esempio, un esempio dei più classici è che i reduci della Shoah per molto tempo sono stati zitti per paura e la vergogna dell'essere sopravvissuti, quindi c'è avuto il tempo perché venisse metabolizzato questo orrore. Invece da sinistra chiaramente il valore della resistenza costituente della Costituzione era sempre sottolineato. Oggi c'è questo ritorno da diversi anni, e non è un caso, visto che se guardiamo il governo, se guardiamo quello che succede, c'è una gran voglia di resistenza, di memoria, di dare dei contenuti a un'opposizione. Un tempo si considerava che il fumetto fosse, diciamo, una forma comunicativa, espressiva, rivolta magari ai più giovani, ai bambini, ai ragazzi. Oggi non è più così. Sì, devo dire che è cambiato anche proprio il target, perché ai tempi di Tiramolla, Soldino, erano i bimbi i consumatori di fumetti. Oggi i bambini sono più orientati verso magari libri illustrati di altissima qualità, come vediamo alla Fiera del Libro di Bologna. La Pimpa fa eccezione, ma insomma, di fatto il fumetto è più su una targa adolescenziale, ma direi ancora di più anche adulta, oppure se vogliamo universitaria, per dire una fascia di studio. Quindi la graphic novel, quello che poi si differenzia dal vecchio fumetto, perché è un racconto concluso, è un racconto a fumetti, mentre Tex Willer, Dylan Dog erano racconti seriali come i telefilm, che continuavano, anzi nell'ultima vignetta c'era sempre qualcosa di esplosivo che ci rimandava la settimana dopo. Invece la graphic novel chiude una storia, ed è un pubblico giovanile, sicuramente non di massa, ma importante, anche cospicuo e molto attento. Allora, tornando invece all'iniziativa, appunto ricordo il titolo, Fumetti resistenti, l'antifascismo tra le nuvole, 21 aprile al Mercato Sonato. Da che ora si comincia? Dalle 8, con queste conversazioni, guardando la mostra, e poi dopo c'è DJ set e cena con Kitchen Combat, che è la grande chef.